Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 13 giugno 2015. In Italia l'attenzione al clima comincia a tavola. Gli italiani stanno facendo grandi passi avanti nelle loro scelte di acquisto alimentare. Lo sostiene Slow Food, che da anni si batte per un diverso modello di consumo che metta al centro il cibo sano, pulito e giusto e la produzione ecosostenibile. L'impatto ambientale della tavola italiana si sta infatti riducendo grazie ad una spinta dal basso che premia i prodotti locali e della tradizione, l'agricoltura sostenibile, la riduzione del packaging, la filiera corta. Fin qui la notizia del 13 giugno 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente in questo 2012. Lo scorso 26 maggio Slow Food ha messo al centro del suo Slow Food Day il rapporto tra cibo e ambiente. Lo ha fatto lanciando Fulmini e Polpette, una guida che aiuta il consumatore a fare scelte responsabili a tavola, con piccoli gesti quotidiani. Cinzia Scaffidi, direttrice del centro studi Slow Food. Fulmini e Polpette, sì, è un titolo che appunto già richiama immediatamente il legame che c'è tra il cibo e il clima, e poi lo esplicitiamo nell'elenco di 10 buone pratiche che si possono adottare in maniera molto semplice quando si fa la spesa, quando si cucina, quando si mangia, e quindi l'attenzione al risparmio di acqua, l'attenzione a leggere in etichetta la provenienza dei cibi in modo da capire quanta energia è stata utilizzata per il loro trasporto, evitare di utilizzare e di acquistare cibi con molto packaging, perché tutto quel packaging è tutta energia che è stata usata per essere prodotto, ma che verrà anche usata per essere smaltito, che diventerà rifiuto. L'attenzione a che tipo di produzione, di agricoltura ha generato quel cibo, perché l'agricoltura non è una sola e non è tutto uguale. C'è un'agricoltura che fa molto bene al pianeta, che è l'agricoltura sostenibile, che in qualche maniera si pone anche dei limiti in termini quantitativi, quindi la piccola media scala, e c'è un'agricoltura che invece ha un senso di onnipotenza e è un'idea che il suolo sia semplicemente un sostrato su cui produrre, che invece non fa affatto bene al clima. A volte il consumatore ha un senso un po' di sgomento, anche il consumatore più sensibile, più avvertito, forse proprio il consumatore più sensibile e più avvertito ha la sensazione che sia troppo complicato, che tutto questo è al di sopra delle sue possibilità e che lui non può aggiustare il mondo, mentre invece il mondo si aggiusta anche con delle piccole scelte costanti e un cambio culturale che magari è un pochino più lento, però poi si radica e dà qualche risultato. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.